24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Quanta sporcizia c'è nella Chiesa, e proprio anche tra coloro che nel sacerdozio dovrebbero appartenere completamente a lui. Gianfranco Swiderkowski, decano dei vaticanisti italiani, autore di un libro, Un Papa solo al comando, una Chiesa che a fatica lo segue. Ecco, questa frase del cardinale Ratzinger fu rivoluzionaria. Cominciava l'epoca della caccia ai pedofili? Sì, anzi, dimostrava che la caccia ai pedofili era messa molto in difficoltà dalla Curia Romana, ed ecco perché quell'esplosione di Ratzinger per cercare un po' di liberarsi dei lacci e lacciuoli che lo tenevano un po' troppo stretto. Ecco, è una Chiesa un po' smarrita, in un certo senso addormentata dal lunghissimo papato carismatico di Wojtyla, di cui si celebrano i 10 anni dalla morte. Era un po' così la Chiesa? Io penso che non tanto addormentata quanto io penso c'era un momento proprio di passaggio in cui c'era da riprendere la storia del Concilio, e lì c'era stato proprio un conformismo generale, per cui lì si addormentavano tutti e si cloroformizzava tutta la Chiesa. Ecco, poi Ratzinger però, una volta eletto Papa, fin dall'inizio disse cose pesanti e anche un po' oscure. In questo momento io posso dire soltanto: pregate per me, perché io impari sempre più ad amare il Signore, ad amare sempre più il suo gregge. Pregate per me, perché io non fuga per paura davanti ai lupi. Perché io non fuga per paura davanti ai lupi. Ma chi erano i lupi? E pensare che Ratzinger era l'uomo più antiburocrazia della Curia Vaticana, invece dopo diventato Papa si è accorto di quanto la burocrazia vaticana gli mettesse i bastoni fra le ruote. Ecco, sono loro che portano Benedetto le dimissioni? Credo che sia un po' tutto. Tanto c'è il fatto che, è un mio piccolissimo parere, certo, forse un teologo non deve diventare Papa, perché nel caso suo si è portato dietro tutti i suoi cruci del Concilio. E poi perché lui è un uomo mite, e quindi arrivavano cardinali e dicevano: i lupi, metti giù, metti via questo, metti via quest'altro di cardinali. E lui diceva: non avevo il coraggio di toccare nessuno. Ecco, le dimissioni di Benedetto però restano ancora una delle pagine più difficili da decodificare in tutti i suoi significati, è vero? No? Sì, io personalmente non l'ho capito, non l'ho capito. Se infatti fossi... il cardinal Ruini ancora oggi dice: Ratzinger deve ancora spiegarci perché ha rinunciato. Sono parole pesanti dette da un cardinale come Ruini. Se lo dice Ruini, che è un uomo molto, fra l'altro anche molto cauto da altro aspetto, quindi significa che forse non erano così chiare le spiegazioni che Ratzinger ha dato al momento delle dimissioni. E tu? Io penso veramente che la sua... Lui intanto era... ha fatto un anno e mezzo meraviglioso. Un anno e mezzo meraviglioso l'ha fatto, poi c'è stato il cambio del segretario di Stato, il cambio del portavoce, per cui dice io è rimasto abbastanza solo, non è stato aiutato, non è stato... E lui a un certo momento si è accorto che non riusciva ad affrontare le crisi. Crisi. Però una rinuncia, quella di Ratzinger, Swiderkowski, che... per alcuni è una rinuncia però profetica, cioè una lezione di umiltà per i potenti del mondo. Per altri invece è stata una resa, forse una resa ai lupi. Per lei? Diciamo, è naturalmente un atto coraggioso di umiltà, perché uno che decide dopo secoli di fare un gesto del genere lo è. L'unica cosa però che c'è da pensare, e mi lascio un po' in dubbio, che questa decisione non è stata presa quando poi è stato annunciato qualche mese prima. Ma lui ha cominciato a pensare già nel 2009, lo disse in un'intervista che è uscita nel libro del 2010, quindi significa che era un qualcosa che si portava a dentro fondo. Esatto. Ecco, lei è decano dei vaticanisti, quindi conosce misteri, segreti del Vaticano. Con Papa Francesco è cambiato tutto in Vaticano? Beh, perlomeno sul piano dei rapporti personali, del parlare, dei gesti, sicuramente è cambiato completamente, ecco, tutto. Lei ha scritto un libro, appunto, quello di cui stiamo parlando, Un Papa solo al comando è una Chiesa che a fatica lo segue. Ecco, ma il Papa non è sempre un uomo solo al comando? Il Papa lo è. Solo per il fatto che è lui in capo spirituale di un popolo di oltre 1 miliardo di persone, però lo è particolarmente solo quando lui sta affrontando una grande impresa. Ecco, ma in che cosa allora è più solo degli altri? è più solo, per esempio, faccio un riferimento. Sì. Il grande cardinale, il cardinale Ercaro, quando sta per cominciare il concilio e Giovanni XXIII si accorse di come la curia avesse in qualche modo rovinato la preparazione con dei documenti pieni di condanno meno, allora è che non sapeva cosa fare, perché la presa sarebbe stata, dice una bellissima frase che si possa applicare a Francesco, diceva quella solitudine istituzionale in cui noi, pur presi dal fascino degli orizzonti che lui apriva, non riuscivamo a seguire il suo passo, ad essere di fianco a lui. Ecco, solo, dice Francesco, però addirittura scritto in circa quattro mani con Ratzinger, allora tanto solo no. Tanto solo, quella enciclica io invito ad andare a leggere, per tre quarti c'è una differenza enorme di spirito, cioè uno c'ha ancora addosso la crisi dell'Europa, la crisi della secolarizzazione, l'altro invece parla di apertura, l'ultimo capitolo dove l'altro ci ha messo appena appena le mani. Ecco, ma quindi molti pensano che Papa Francesco tiene Ratzinger vicino per coprirsi un po' con l'ala più tradizionale della Chiesa, è possibile? No, questo non lo penso, dice esattamente, secondo me è un gesuita Francesco, quindi è abituato a tutto, ma penso che la cosa migliore sia quella definizione che lui ha dato in aereo, ci abbiamo un nonno saggio vicino che ogni tanto potiamo consultare. Quindi usando categorie laiche e mondane non si può dire che uno è più di destra e uno più di sinistra, no? No, credo che tutte e due non lo siano. Sono rapporti come sembrano, cioè di affetto e cordialità. Sì, di affetto e cordialità. Ecco, Papa Francesco però ha mandato in soffitta il concetto di valori non negoziabili, che era tanto caro a Ratzinger. Quindi sul piano dottrinale però c'è una distanza abissale fra i due. Forse anche era il momento storico ed ecclesiale che imponeva, della mentalità di Ratzinger, di dire quelle parole, di creare questi valori non negoziabili. L'unica cosa è che, fra l'altro, adesso Francesco non parla nemmeno di norme morali, ma lui sta rivoluzionando la dottrina morale con il concetto, per esempio, di persona. Lui messo al centro, la persona viene prima della norma, prima della legge. Bene. E questa è la sua filosofia, diciamo fra virgolette, certo, è la sua teologia. Ed è questo. Ecco, ma tu dici lei dice nel libro che padre Georg in qualche modo ha costretto Francesco a firmare l'enciclica di Benedetto. È vero? Perlomeno io sto ai fatti, a un certo momento Monsignor Georg ha cominciato a dire alla stampa uscirà un'enciclica a quattro mani. Il portavoce Vaticano diceva no, non voleva smentire così, e l'altro insisteva, e alla fine con queste cose è stato che ha dovuto accettare, credo, Papa Francesco, anche se tutti smentiranno, di aggiungere qualche parola con qualche frase sua, qualche slogan, far capire che ci aveva messo le mani anche lui. Ecco, ma che lei sappia, il Papa ha letto il suo libro Un Papa solo al comando e una Chiesa che a fatica lo segue? Non lo so, questo no. Onestamente non lo so, è uscito da poco, però posso dire una cosa, che appena lui è stato fatto Papa, gli ho mandato invece un altro libro, il penultimo libro che ho scritto, e che era Il Ritorno dei Chierici, dove in qualche modo, e non perché io fossi particolarmente intelligente, ma una conoscenza un po' della Chiesa, raccontavo di due chiese separate, raccontavo di un ritorno di clericalismo, e gliel'ho mandato con una lettera, dicendo però alla fine che la mia lettera finiva lì, non gli davo l'indirizzo, non gli davo il numero di telefono, mi dice qui, ed ero contento far vedere che esisteva un mondo cattolico di base che per anni era stato proprio sottomesso. Così, sottomesso, e finalmente trovava il nessuna suo risposta, portavoce. No, non ha dato risposta. No. Francesco, abbiamo detto, è un gesuita. Ecco, ma cosa c'è dell'essere gesuita nel suo modo di fare il Papa adesso? Beh, c'è molto, c'è questa fede molto semplice, c'è il misticismo, c'è anche il lato combattente, c'è anche questa predisposizione, anzi poi fondamentalmente questa attenzione al discernimento, cioè uno ci pensa prima di fare una cosa, poi c'è questa attenzione al governo, c'è un po' tutto, ma poi lo si vede anche da Papa nella maniera semplice, con lui fa il Papa, c'è anche questa cultura dell'incontro che però, è tipico di gesuiti. Però per un gesuita scegliere come nome Francesco, beh, è un bel modo di essere gesuita, visto che sono i francescani che hanno sciolto i gesuiti. È anche vero però che uno diciamo, nella compagnia di Gesù, questa unione di Francesco con l'insegnamento di Cristo era da sempre, esisteva. E poi lo stesso Arrupe, grande stato preposto già dei gesuiti, a un certo momento, credo nel 76, ad un convegno internazionale, dice: ci vuole un nuovo San Francesco. Ah, bene, quindi ha seguito il suo capo di prima. E con Wojtyla c'è più continuità o distanza, adesso che celebriamo i 10 anni della morte? Apparentemente ci sono tutti i nuovi laudatores di Francesco, quelli che saltano sul carro, che dicono che c'è una contrapposizione. Io trovo invece che fin dall'inizio, da quando si sono affacciati, a ognuno a modo suo, ma sono due persone in piena continuità. Ecco, ma il suo essere venuto dalla fine del mondo, come ha detto Francesco, in sostanza cambia il modo di essere Papa? Sì, cambia, perché di solito, faccio l'esempio anche di Wojtyla. Wojtyla viene e la prima cosa importante che fa, cosa fa? Cerca di portare tutta la sua esperienza, di metterla sulla dimensione universale, cioè deve pensare, invece fa il contrario Francesco, porta la sua visione di periferia, come dice, certo, e guarda le cose anche dal anche punto di vista della periferia. Ecco, Papa Francesco infatti si rifà alla teologia del popolo, che è il suo riferimento culturale, teologico. Ecco, però la teologia del popolo è molto diversa dalla teologia della liberazione, che è stata molto combattuta da Wojtyla. Tanto Wojtyla forse non l'ha combattuta anche questa diceria, perché lui cercò di liberarla dalle contaminazioni marxiste che ci avevano. E poi quella della teologia del popolo è una tipica invenzione argentina, che appunto è stata depurata in tutta la parte politica, e in questa maniera ha recuperato due cose. Uno, recupera tutte le potenzialità della religiosità popolare, e uno anche sul piano politico, il riferimento al bene comune, della solidarietà, è stato molto importante, e credo che lì anche se la porta dietro da Papa Francesco. Ecco, però il presidente della Bolivia, Svidalkowski, oggi dice: il Papa è comunista come me e sta coi deboli. Si può dire? Lo dicono anche i conservatori americani dopo la sua esortazione apostolica Vangelii Gaudium, che lui è un comunista. E ha risposto Francesco dicendo: quando io parlo di queste cose è che io sono un comunista, ma io parlo il Vangelo. E in effetti forse il Vangelo è venuto prima di Marx, credo. Però un Papa un po' anticapitalista, sentiamo cosa diceva in Sardegna. Qui trovo sofferenza, una sofferenza, la mancanza di lavoro che ti porta a sentirti senza dignità, e dove non è lavoro manca la dignità, e questo non è un problema soltanto dell'Italia o di alcuni paesi d'Europa, è la conseguenza di una scelta mondiale, di un sistema economico che ha al centro un idolo che si chiama denaro. Ecco, non sarà comunista Francesco, ma una visione radicale, però, certamente, sì, del Vangelo. Sì, ma è appunto lui, credo che la cosa fondamentale che caratterizza il suo pontificato sia il ritorno al Vangelo puro tale quale, ed è questo in quel maniera che lui dice queste parole, la cultura dello scarto, la globalizzazione dell'indifferenza. Gli ultimi. Ecco, e credo che sia tu in questa linea, e credo che ci voleva un Papa venuto dal Sud per essere un autentico portavoce dei popoli poveri. Mix 24. Ecco, il Papa dice anche: lasciamoci rinnovare dalla misericordia di Dio. Cioè? Dunque, la misericordia è una virtù che in qualche modo era stata messa da parte. E se uno va a vedere anche il catechismo nuovo della Chiesa Cattolica, vede soltanto si parla di opere di misericordia, cioè la conseguenza, non la misericordia in quanto tale. Allora, vedere anche in questa la progressione che c'è stata nella Chiesa in questi anni. Comincia Giovanni XXIII a prendere il concilio e dice: meglio delle condanne, la dottrina, la medicina della misericordia. Medicina. Quindi, poi arriva Giovanni Paolo II, che parla invece di una misericordia contestualizzata fra i due guerre mondiali, cioè che parla della dignità dell'uomo. Adesso lui invece dice: no, la misericordia è un qualcosa che fa parte proprio del DNA del cristiano. Un'evoluzione del pensiero. Quindi nel suo libro lei dice che l'essenza di Papa Francesco però emerge soprattutto nelle omelie tutte le mattine a quotidiani di Santa Marta. Perché lì? perché lui è se stesso, è libero, non deve passare attraverso, ma noi non ci passa più, a differenza dei papi del passato, le censure curiali, e quindi lui tranquillamente legge prima la pagina del Vangelo e la, poi e, la dopo, e la commenta, e lui soprattutto all'inizio è riuscito in quella maniera a far passare tutta una serie di critiche ai singoli componenti della gerarchia. E infatti il bersaglio di Francesco è ancora e soprattutto la curia romana, il carrierismo, l'arrivismo che dominano abbastanza la curia. La scelta di vivere a Santa Marta ha spiazzato tutti? Ha spiazzato tutti perché nessuno se l'aspettava. Nessuno l'aspettava. E anche perché dopo lui in qualche modo condizionerà il successore. Perché il prossimo Papa, se dovesse tornare su, che poi lo stesso Vitiva abitava in due stanzette, chissà cosa penseranno allora come se uno torni indietro. Anche la corruzione della politica, però, è nel mirino del Papa. Senta qui. La tangente è un'abitudine mondana fortemente peccatrice. Dio ci ha comandato portare il pane a casa con il nostro lavoro onesto. Si incomincia forse con una piccola bustarella, ma è come la droga, pregare perché il Signore cambi il cuore di questi devoti della Dea Tangente e se ne accorgano che la dignità viene dal lavoro degno, del lavoro onesto, del lavoro di ogni giorno e no di queste strade più facili che alla fine ti togliono tutto. Una condanna durissima, senza sé. Senza la corruzione per lui è il peccato peggiore del mondo, l'ha sempre detto. Ecco, spesso il Papa parla di terrorismo delle chiacchiere, del silenzio dei vescovi sulla pedofilia, dello scandalo per il prezzo dei sacramenti venduti. Ma sta riuscendo a muovere le strutture oppure questo lo rende ancora più solo? E lui sta facendo quello che dovrà per forza fare, cioè deve cambiare la mentalità, deve mettere i cuori. Se lui prima non cambia le mentalità e i cuori, inutile sarà cambiare anche le strutture. E quindi il problema di arrivare al tale vescovo, da tale diocesi, questo è farlo cambiare in quella mentalità. Ecco, in realtà però si parla tantissimo nei media del Papa quando critica la Chiesa, i vescovi, i preti, i cattolici, ma se lui dice che l'aborto è abominevole, tutti zitti. Perché? Questo è il conformismo nuovo, c'è una marea di conformismo spaventoso, perché o si sale sul carro di Francesco dei Vincitori. Devo dire che ho sentito anche pochi giorni fa, con tutto rispetto, ci mancherebbe altro, Bertinotti che diceva che ha trovato nella parola di Francesco la sua esperienza marxista dei sindacati di base, oppure si liquida questo Papa come il parroco argentino e così, che non c'ha valore. Anche che quando parla del diavolo come un grande avversario, tutti zitti. Appunto perché questo piace il Papa, il Papa aperto, progressista, loro dicono così. Però lui predica di un Dio misericordioso, accogliente, inclusivo. Vabbè, e quindi anche Bertinotti c'ha ragione, si infila. Per la sua parte. Senta, in realtà, di fronte però a questa predicazione del Papa, l'Europa e l'Occidente sembrano spiazzati perché non ha un approccio borghese in qualche modo. E intanto perché sentono la lontananza di Bergoglio dall'Occidente e dall'Europa. Cioè, intanto, è questo che dice, quando dice vengo dalla fine del mondo, dice questo. Sì, ma non solo, ma come l'ha trattati quando è andato a Strasburgo dicendo ai deputati europei ci state perdendo veramente il senso della vostra identità. Lui non capisce l'Europa, non capisce l'atteggiamento. Cioè, vuole cercare di smuoverla, l'ha chiamata addirittura una nonna, qualcosa del genere. Ma non è vero. Molti dicono che parla troppo, però troppe interviste che poi devono essere smentite, corrette, come quella per esempio con Scalfari, famosa. Io di la verità mi permetto, non è che voglio fare suggerimenti al Papa, ma io invece di tutte queste interviste che poi vengono riportate nel mondo pezzettini, corrette così, io dico perché il Papa non fa, come facevano i vescovi al tempo del Concilio, non fa una lettera al popolo di Dio una volta al mese in cui dice le cose come gli fa. Sue. E così arrivano, leggono nelle parrocchie, ecco. Sembra una grande idea, perlomeno. Buona idea questa. Molti dicono che alla Corte del Vaticano per oggi si è sostituita la Corte di Santa Marta. Sì, perché nonostante le sue strozzature prima, prima, e ne ero testimone quando dopo certe volte andavo su a mangiare da Wojtyła. Meno male il Papa aveva sempre delle persone. Qui invece il Papa, bene o male, sta sempre con gli stessi vescovi, con gli stessi preti di ogni giorno, e c'è, essendo più avvicinabile, sì, allora uno è anche più spendibile, cioè uno che sta a Santa Marta poi se la vende fuori e ci fa carriera anche di questo. Se smantellare lo IOR, sostituirlo con l'APSA come banca centrale del Vaticano, è stata una cosa reale o di facciata? No, è stata una cosa reale. Il problema era di rimettere trasparenza e serietà negli ordini. L'unica cosa è che hanno fatto una serie di commissioni, adesso una serie di nuovi organismi, ce ne sono tre per l'economia. Vabbè, il Papa da prima una cosa, però è già qualcosa. Certo, l'uno perlomeno controlla l'altro, quindi non ci sarà più gli scandali del passato. Il Papa ha messo in crisi molti credenti dicendo che tutti devono essere accolti, amati e perdonati. Poi però in aereo, tornando dalle Filippine, riferendosi alla strage di Charlie Hebdo, ha detto, sentiamolo: è vero che non si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno. Ma è normale. Non si può provocare, non si può insultare la fede degli altri. Che prende in giro la religione degli altri, provocano, c'è un limite. Allora, è un eccesso il suo pensiero? Devo dire che quella frase lì non l'ho capita, perché se anche lui voleva spiegare la differenza fra provocazione e reazione, sembrava quasi che lui approvasse in qualche modo, lo dico per assurdo, il gesto dei terroristi come reazione alla provocazione di Charlie Hebdo. Ecco, non era così. Lui forse certe volte in effetti parla troppo, non tiene conto delle conseguenze, lui generalizza troppo. Quando deve accusare qualcuno, accusa tutta la categoria, e il 70-80% della categoria che fa il suo dovere dice: e perché? Ecco, ma le resistenze a Francesco, appunto, sono sempre più forti e organizzate, però non solo tra i tradizionalisti. Se lo si è visto al primo sinodo, lo si è visto perché lì lui si è trovato, se non contro, perlomeno un po' più sul fronte moderato, proprio gli episcopati che lo avevano sostenuto, eletto e sostenuto in conclave. E quindi è stato un po' spiazzato. E quindi lui da allora ha cominciato a fare un po' a rimanere indietro, cioè lui manda avanti, nel senso che vuole creare una mentalità, prova, per poi arrivare, prova, va su un terreno che da solo. Però adesso forse è difficile su quel terreno lì andarci piano. Ecco, ma sul piano geopolitico l'obiettivo strategico della Chiesa di Francesco sembra essere chiaramente l'Asia. Se non si capisce questo, non si capisce il suo magistero. Devo dire che La Cina è il suo sogno. Sì, devo dire che è una frase che aveva detto già Wojtyła, dicendo il nuovo secolo sarà il secolo dell'Asia, altrimenti la Chiesa non sarà. Certo. E lì veramente c'è la parte maggiore dei non credenti, e c'è il rapporto con la Cina che credo che arriva da padre Matteo Ricci. Esatto. Però lui non ha incontrato Dalai Lama per tenersi aperta quella porta. Non l'ha incontrato, però lì non credo che sia lui. Lì è questa nuova diplomazia che per essere diventa più Bergoglio dice che io sono un po' incosciente, un po' temerario, però la diplomazia forse lo è un po' troppo. Ecco, parliamo della famiglia. In Sri Lanka il Papa ha detto una cosa che ha turbato molto. C'è chi crede, ha detto il Papa, che per essere buoni cattolici bisogna essere come i conigli, e ha rovesciato un po' l'insegnamento di Paolo VI sulla famiglia. Insomma, famiglie numerose equiparate a conigli, non è un po' forte? Sì, e infatti lui stesso si è scusato dopo. Lui, quella è una di quelle situazioni in cui lui, il Papa, parla troppo. Lui voleva dire, parlava dell'umane vite, della regolazione delle nascite, e quindi diceva che giustamente bisogna avere il numero di figli che uno poi porta a maturazione, e gli è scappata gli quella è scappata frase. La frase. E lui, ma per dire, il Vaticano. Prima il sostituto ha detto: no, il Papa usava il linguaggio di tutti. Poi dopo invece lui si è scusato, perché ha capito che era sbagliato. Chi lo voleva interpretare? Quindi c'è il rischio che ogni tanto voglia un po' compiacere i media? Un po' vittima di pressioni mediatiche? Che lo è, in senso buono, ma io credo che lo è. Lui è prigioniero un po' anche un po' di questo, nel senso che lui prima aveva paura di questo consenso popolare, e il consenso popolare, fra l'altro, poi dopo è sostenuto dalla bolla mediatica, e la bolla mediatica poi si sostiene con il consenso popolare. E lui, dopo che ha superato la paura, però è rimasto un po' prigioniero, perché per esempio lui fa dei gesti, certe volte delle parole che le ripete perché sa che colpisce la gente. Non lo fa come se fosse lui usa lo strumento, certo. Ma lo sa perché ha fede di evangelizzazione, però ecco. Lui lo è, è un po', secondo ecco, me. Però abbiamo parlato prima del sinodo sulla famiglia, quello che verrà sarà un banco di prova sulla lotta interna al vertice della Chiesa? Ma per qualcuno forse sì, ma si può trovare anche, ho visto le votazioni l'altra volta, anche una via di mezzo, e quindi si può andare avanti. Ma si arriverà ai sacramenti separati? Dunque, intanto cose importanti hanno parlato, c'erano state con parole nuove nei confronti dei matrimoni civili e delle convivenze, è già qualcosa di importante. E poi per quanto riguarda i divorziati e gli sposati, a parte il fatto che io ripeto sempre che esiste ancora una prassi della Chiesa ortodossa che fa il coniuge ingiustamente abbandonato ha diritto di sposarsi, ma lì forse verranno eliminate tutta una serie di impedimenti ai divorziati. Vabbè, e gli sposati. Un lavoro si farà. L'8 dicembre saranno i 50 anni del Concilio Vaticano II. La Chiesa di Francesco, che è una chiesa in uscita, una chiesa ospedale da campo, sarà la chiesa della realizzazione del Concilio? Io penso di sì, veramente di sì, sarà un nuovo inizio del Concilio. Ma con o senza l'accordo del Papa Emerito Ratzinger? Forse il Ratzinger è rimasto ad un altro tipo di concilio, non quello che è finito il concilio e quello che riprenderà Francesco. Ma perché la proclamazione di un giubileo così all'improvviso? E perché lui sentiva che gli, dovendo occuparsi soprattutto delle strutture, della curia, questa cosa, gli scappava quello che è la cosa importante, la riforma spirituale. E lì è partito da allora questo. È partito. Anche perché questo giubileo vedrà che al centro soprattutto ci sarà soprattutto un rilancio del sacramento più all'oscuro ormai, è la confessione, la penitenza. Un'ultimissima domanda, Svidarkovskij. Su internet abbiamo visto sventolare la bandiera dell'ISIS su San Pietro. È un pericolo in più nell'anno del giubileo? Beh, tutto può capitare, però io non ci credo.